la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Questo lunedì 27 di giugno. No, 26, perdonatemi, sto andando avanti col tempo. Sono le 16.31, primi 44 secondi in diretta da Milano. Vi saluta e vi ringrazio come sempre per l'ascolto diretto in podcast Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Sto rispondendo da ieri a molte lettere che mi hanno dato sulle banche venete. E ho detto stamattina come la penso. Sì, effettivamente sono molto critico. Mi limito semplicemente a dirvi questo. Lasciamo perdere la polemica sui 18 mesi e come i regolatori italiani si sono comportati. Lasciamo perdere. Visto la condizione in cui eravamo arrivati venerdì sera, cioè fatela con la liquidazione quarta amministrativa italiana, io avrei capito di più seguire la strada per cui gli attivi buoni, i depositi, gli asset buoni della banca, allora li si mettevano alle mani di uno o due banchieri nominati dai liquidatori di Stato, visto che i soldi sono di Stato, con l'obiettivo poi di vendere al meglio dopo uno, due, tre anni, come hanno fatto Royal Bank of Scotland altrove e così via. Non capisco i miliardi invece dati a Banca Intesa, io non li capisco. Per fare questo il decreto emanato ieri ha dovuto procedere alla deroga di ben 37 norme del testo unico bancario del codice civile, l'ho già scritto ieri, e mi si dirà meglio Intesa, tu sei per il privato, Intesa dimostra di saper fare meglio di due banchieri ad hoc. La mia idea è che se si usano i soldi pubblici non si usano per darli a una banca privata, che rispetto, ha fatto benissimo a dire se ci chiedete di fare questa cosa noi non vogliamo mettere soldi nostri, però i soldi dello Stato si utilizzano in forme che a quel punto garantiscano al meglio che poi il ritorno della liquidazione e poi delle passività al meglio vada tutto allo Stato, mentre in questo caso ci sono dei soldi parecchi che vanno a Intesa, che si rafforza, e non, quindi non è un giudizio contro Intesa, ma è un giudizio di merito su il criterio che viene seguito, al netto di tutto quello che penso ai 18 mesi precedenti che conoscete. Tutto qui, ma la trasmissione di oggi non è dedicata a questo, che sarà comunque un tema, vedrete, molto lungo, perché è questa, la gestione della liquidazione sarà lunghissima, durerà anni, eccetera, eccetera, eccetera. Solo alla fine capiremo quanti di quei soldi pubblici torneranno indietro, ve lo voglio dire da adesso, perché stamattina c'è stato un brief della Banca d'Italia che ha detto quei 17 miliardi di mobilità di cui ha parlato il governo, era meglio se quella cifra non lo faceva. Benissimo, però l'ha fatta e quindi tutti i giornali giustamente la pubblicano. Invece la trasmissione di oggi è dedicata a una proposta che il Sole 24 Ore ha anticipato ieri. Premetto un conflitto di interesse, è una proposta che condivido in pieno e a cui ho anche lavorato, però farò delle domande perché c'è un ospite che la spiega, tentando di identificare i punti deboli e che risposte danno chi la propone. È la proposta di una riforma fiscale complessiva, Sole 24 ieri vi ha dedicato una pagina con dei grafici, per una flat tax, quindi per un'aliquota piatta al 25% di convergenza per l'imposizione sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, quindi un'aliquota piatta di convergenza per tutte le maggiori imposte del nostro paese, e una imposta che però è coerente con il dettato costituzionale della progressività, vedremo come, e un'imposta che propone un minimo vitale da integrare e quindi anche un'imposta negativa con trasferimenti monetari. Si pone esplicitamente il problema degli incapienti e di chi ha meno, che nel nostro ordinamento invece non ci siamo posti e non sono stati neanche sfiorati dai bonus di questi ultimi anni. Ricordatevi che i bonus hanno ammontato a una cifra pari a 50 miliardi di euro. È una proposta che si pone il problema, volendo diminuire la pressione fiscale complessiva e la spesa pubblica complessiva del 4% del PIL entrambe rispetto a oggi, di identificare norme contestuali per diminuire la spesa pubblica, cioè deve essere fatta non in deficit. È una proposta che abbraccia anche la sostenibilità del welfare, quindi poiché propone di far sparire IMU, TASI e IRAP, propone una via specifica per finanziare intanto la sanità, E insomma è una proposta da esaminare a mio giudizio con una certa attenzione prima di liquidarla, capirla. Io vi dico solo che al di là dell'anticipazione del sole seguiranno in questi giorni gli articoli nel dibattito di favorevoli e ovviamente di contrari e critici. Se andate sul sito che l'Istituto Bruno Leoni, che ha coordinato coloro che hanno lavorato a questa proposta, ha da ieri messo online, il sito è www.25pertutti.it, 25 numero, quindi 25 per tutti, tutto attaccato, 25pertutto.it, trovate un portale nel quale ci sono dei video in cui si spiega e un portale in cui potete fare immediatamente la prova, mettendo il vostro reddito, per capire se e quanto ci guadagnereste. In più, se a questo indirizzo www.25pertutti.it fate /pdf.html vi compaiono due cose. Primo, un paper di 12 pagine fitte in cui c'è la spiegazione, un minimo di spiegazione nei dettagli di come funziona la proposta, e nella parte bassa della pagina che vi compare come scaricare un libro online di 122 pagine al modico costo di 3,99 euro, a seconda poi delle piattaforme che usate per scaricarlo. In questo libro di 122 pagine c'è il dettaglio allungato e con tutti i rimandi agli studi, alla bibliografia e alle proposte di tipo diverso sin qui presentato. Allora, per spiegare che cos'è, come potrebbe funzionare, uno di coloro che hanno cooperato alla sua stesura, cioè il professor Dario Stevanato, che insegna tributario a Trieste. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, iniziamo a spiegare che cosa vuol dire aliquota di convergenza tra quale imposte. Sì, dichiaro anch'io, ma è già stato ricordato il mio piccolo contributo, quindi dichiaro il conflitto di interessi. Peraltro poi ho scoperto che mentre redigevo o stavo per finire di redigere il mio libro sugli aspetti giuridici della flat tax, tutto Bruno Leoni con Nicola Rossi in particolare stava portando avanti in parallelo una proposta molto simile e diciamo in cui erano molto più curati gli aspetti economici e di sostenibilità. Diciamo che in estrema sintesi si tratta dell'idea appunto di trasformare l'IRPEF, che oggi ha 5 aliquote progressive, in una imposta ad aliquota proporzionale unica, e questo con degli effetti che magari esaminiamo brevemente, cioè non è solo, perché spesso si dimentica che l'IRPEF non copre tutte le ipotesi di tassazione del reddito, anzi, nata come un'imposta universale, si è via via trasformata in un'imposta speciale, di fatto ormai sui redditi di lavoro e poco più. Le ultime erosioni della base IRPEF sono recenti, tra cui abbiamo avuto da ultimo anche quella sui redditi di piccole imprese, imprese individuali, società di persone, che è vero che sconteranno un secondo prelievo eventuale sugli utili distribuiti, ma per intanto pagano un'imposta proporzionale. Quindi questa è una constatazione che non può essere dimenticata, invece spesso nei dibattiti viene del tutto trascurata. Quindi la progressività, in cioè significa i redditi dai mobili, per esempio, dai mobili, sono sottoposti, redditi finanziari, locazioni, ognuno ha cose diverse, autonomi minimi, insomma l'elenco è molto lungo. E questo già di per sé è una circostanza, diciamo, è un'evoluzione storica che fa a pugni con il disegno originario dell'imposta personale progressiva, cioè dell'IRPEF, perché la progressività funziona fin tanto che tutti i redditi ci rientrano dentro. Al che uno potrebbe anche obiettare, vabbè, ma perché allora non mettiamo tutti i redditi dentro l'IRPEF? Questo è un capitolo, anche possiamo tornarci, ma di fatto è abbastanza insostenibile questa possibile alternativa del solutoria, diciamo così. Allora, a fronte di questo e a fronte di aliquote IRPEF applicabili a un sottoinsieme di redditi e per di più a solo quelli di lavoro, che non riesce nemmeno poi a differenziare adeguatamente la posizione di chi ha redditi bassi rispetto a chi ha redditi molto elevati, perché di fatto l'IRPEF, come qualcuno dice, è progressiva sui redditi medio-bassi ed è proporzionale su quelli elevati, e ci si chiede se non sia meglio almeno provare a immaginare, provare a discutere di un'ipotesi alternativa per raggiungere la progressività, perché come è stato anche da lei ricordato, la Costituzione impone che il sistema sia ispirato a criteri di progressività. Ora, l'ipotesi, diciamo la proposta di Bruno Leoni, che è un po' quella che la sua falsariga di quella che ho esaminato io nel libro, è di passare, di ritornare, per meglio dire, a una progressività per deduzione, cioè che si ottiene applicando a un'aliquota unica, ma soltanto a partire da al di sopra di un certo reddito esente. Le peculiarità, alcune delle molte peculiarità della proposta Bruno Leoni e di Nicola Rossi in particolare, sono poi di istituire un'imposta su base familiare, mentre l'attuale IRPEF invece è un'imposta individuale, così superando anche molte delle obiezioni e contraddizioni che si creano quando c'è un tema di cumulo dei redditi che non si fa, c'è un tema di sperequazione tra coniugi a diverso livello di redditi, c'è un tema di penalizzazione per le donne che lavorano, che cercano lavoro. Quindi una base esente, partendo dall'individuo, poi commisurandola all'effettivo carico familiare, quindi alla presenza di quanti familiari, e anche adeguandoli tutto con delle considerazioni che hanno a che vedere con determinate condizioni all'interno della famiglia, ad esempio soggetti disabili, minori di età, soggetti anziani e così via. In termini soldoni, come funzionerebbe, cari ascoltatori? Funzionerebbe che questa aliquota unica, 25%, avrebbe una deduzione base, il famoso minimo vitale, una deduzione base di ammontare pari a 7.000 euro annui per nuclei familiari anche composti da un solo adulto, no? Questo ammontare verrebbe poi incrementato attraverso l'uso di una scala di equivalenza. Si usa qui nella proposta la scala di equivalenza ISEE, che è ovviamente adotta coefficienti a seconda della numerosità dei componenti in nucleo, anche unioni civili, non matrimonio, eccetera, eccetera. Dopodiché la progressività si attua perché al di sopra di un certo multiplo, 5 volte, minimo vitale, cioè la deduzione base di 7.000 euro, le deduzioni scendono fino a azzerarsi. Quindi la progressività sarebbe non solo, secondo voi che l'avete scritta, assicurata, ma sarebbe più equa di quanto non è quella garantita dalle 5 aliquote invece progressive. Come fa a essere più equa? Beh, il problema è che quella attuale è iniqua, cioè se si vanno a vedere le curve delle aliquote marginali e delle aliquote medie dell'attuale IRPEF, si scopre una sorta di encefalogramma, cioè le aliquote marginali che schizzano verso l'alto o verso il basso, quindi ci sono dei salti e delle discontinuità nelle aliquote marginali effettive. In parte lo si vede anche delle aliquote legali, cioè un mega scalone di aliquota tra il 27, se non ricordo male, il 38%, in corrispondenza di redditi superiori ai 26.000 euro. Quindi per redditi già che non esiterei a definire bassi o medio bassi, già ci avviciniamo, se ci aggiungiamo le addizionali comunali e regionali, siamo oltre il 40% per redditi bassi di lavoro. Quindi l'aliquota media invece ha dimostrato che ad un certo molto presto, attorno ai 45.000 euro, si appiattisce. Quindi io ho l'impressione, ci sono diverse moltissime considerazioni da fare, ma io ho l'impressione che chi è molto attaccato all'IRPEF progressiva non la conosce, cioè più che altro non ha idea di com'è, di qual è lo stato attuale della tassazione dei redditi in Italia, dei tanti regimi che ci sono e delle numerose disparità di trattamento e contraddittorietà insite nell'attuale IRPEF a scaglione. Un'altra delle caratteristiche, ma qui ci torniamo dopo il minuto di pausa, di questa proposta per chi sta peggio è che si integra il minimo vitale perché è al di sotto, cioè c'è una vera imposta negativa, un trasferimento monetario. L'imposta negativa, cara a alcuni padri liberisti, che non è vero affatto che fossero insensibili socialmente, con un trasferimento monetario a fronte del quale la proposta dice naturalmente questo si fa in presenza di uno sfoltimento di tutte, o meglio, di quella parte delle misure tra le politiche assistenziali che nell'attuale ordinamento cooperano a questo fine e che però hanno purtroppo l'effetto di non essere concentrati su chi ha meno. Per spiegare questo punto, tra un minuto. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui con Dario Stevanato a tentare di spiegarvi questa proposta di flat tax al 25% del Bruno Leoni. Abbiamo visto l'obiettivo generale, abbiamo visto come è progressiva, abbiamo visto come è anche familiare, e veniamo al punto, dopo aver identificato la soglia, il cosiddetto minimo vitale al di sotto del quale lo si integra, quindi con un'imposta negativa al trasferimento monetario, e questa è negli obiettivi dei proponenti la cosa che serve a fare in maniera molto più semplice e automatica quello che in realtà propongono coloro che hanno depositato le proposte 5 Stelle, per capirci, dicendo reddito di cittadinanza. Perché è più equo delle diverse famiglie di fiscal expenditures, cioè di agevolazioni fiscali che si concentrano in teoria su questo fine, ma in realtà poi non inquadrano chi sta veramente peggio, che sono previsti nell'attuale ordinamento, professor Stevanato? Ma allora, l'attuale ordinamento genera quegli effetti che sono stati ricordati dall'Istat pochi giorni fa. Sì, la settimana scorsa. Infatti, in cui è stato dimostrato che il sistema di tax benefit produce degli effetti a rovescio, cioè l'unica categoria che ne esce meglio, che diciamo che ha un miglioramento dell'indice Gini pre e post distribuzione, appunto pre e post prelievo fiscale e distribuzioni varie da parte dello Stato, è quella dei pensionati, mentre tutti gli altri, e in particolar modo i giovani, escono addirittura per essi aumenta addirittura il rischio di povertà. Quindi non penso che l'attuale modello sia soddisfacente, insomma, questo credo non lo ritenga nessuno. La proposta elaborata dall'Istituto Bruno Leoni secondo me è molto originale, perché combina un elemento che è quello di integrazione al minimo per chi non raggiunge la soglia del reddito di povertà assoluta, con poi l'istituto noto come imposta negativa, cioè un trasferimento monetario pari all'aliquota, quindi in questo caso al 25%, sulla differenza tra appunto questa soglia di povertà assoluta e l'effettivo reddito qualora inferiore al minimo vitale, oltre il quale invece diciamo un secondo tipo di minimo vitale, chiamiamo così, più elevato, quello fiscale in senso, sì, quello tributario in senso tecnico, oltre il quale invece si ha un obbligo positivo, cioè si diventa debitori verso lo Stato. E l'imposta negativa ha tra i suoi vantaggi quello di non scoraggiare l'offerta di lavoro e l'efficienza produttiva, perché chi sta sotto una certa soglia ha comunque il vantaggio a guadagnare di più, perché quello che perde del non lavorare non è il 100% della differenza, ma soltanto in questo caso il 25%. Invece per la parte in cui c'è un'integrazione al minimo per chi sta sotto la soglia di povertà assoluta, lì questa proposta non dovrebbe scontentare i tanti sostenitori del cosiddetto reddito di cittadinanza, in realtà è un reddito minimo, tra cui ormai molti partiti politici sostengono questa esigenza, pare che l'Italia sia uno degli ultimi paesi rimasti a non avere una misura universale di questo tipo. Allora, ponendosi il problema, ma se vogliamo far sparire oltre ai mutasi anche l'IRAP, la cui componente lavoro è stata abbattuta, ma in realtà poi serve a pagare la sanità attraverso le regioni, la proposta dice: per la sanità, vediamo innanzitutto per la sanità, poi magari anche per altri settori si pone il problema, ma per la sanità, dice, per un multiplo rispetto al minimo vitale di reddito si dà la possibilità a chi quindi ha più reddito, 5 volte il minimo vitale, insomma, chi inizia a stare tra i 40.000 euro in su, ma a quelli gli si dice: bene, tu puoi scegliere o l'opting out al Servizio Sanitario Nazionale, ma a quel punto hai un dovere di un'assicurazione sanitaria obbligatoria che copra tutto, te e la tua famiglia, oppure devi a quel punto resti nel Servizio Sanitario Nazionale, ma a quel punto sei chiamato a un ticket aggiuntivo, e questo per coprire il fabbisogno finanziario della sanità, è così? Sì, è così, mi sembra che introduca un elemento di scelta e di libertà nei soggetti a un reddito più elevato, introduce degli elementi di beneficio, di principio del beneficio, quindi non necessariamente determinati servizi pubblici, in questo caso quello sai, ma io volendo, cioè qua si potrebbe discutere a lungo, perché avere, è un settore che conosco meglio di quello sanitario, perché far pagare una retta universitaria uguale a tutti, figli dei più poveri o figli dei più ricchi? Non sarebbe meglio anche lì provvedere con borse di studio per chi ha diciamo ottimi risultati scolastici ma non ha mezzi di famiglia per sostentarsi, invece far pagare una retta più congrua ai figli delle famiglie ricche, perché come molti economisti hanno dimostrato, il nostro sistema ad esempio di istruzione finisce per prendere, per come dire, finanziare l'istruzione dei figli dei più benestanti prelevando da tutti gli altri. Sulla sanità è un discorso innovativo che in certo modo reintroduce un elemento assicurativo opzionale a partire da una certa soglia di reddito. Se uno invece vuole restare dentro paga appunto un ticket aggiuntivo commisurato ai propri mezzi economici. Un altro dei punti, stiamo andando random, cercando di sollecitarvi in ascolto, capisco che parla di numeri, che si fa indigestione alla radio, nella televisione, non si può fare come da Vespa che presenta gli schemini e i plastici, però un altro dei punti che secondo me è apprezzabile in questa proposta è dire, guardate, a seconda di come la si attua, insomma ci sono da 11 a 24 miliardi di minor gettito. Però noi vi diciamo come contestualmente, siccome non deve essere fatta in deficit aggiuntivo, qui non si propone la Voodoo Economics, la curva di Laffer, eccetera, eccetera. No, c'è una posizione di responsabilità verso la finanza pubblica, si indica come intervenire per la copertura intervenendo contestualmente sulla spesa. Questo in realtà finisce, professor Stenardo, per essere uno dei punti deboli, perché questi tre anni, cioè la spending review illustrata da Guttke la settimana scorsa dicendo 30 miliardi l'anno oramai eccetera eccetera, chiarendo, noi razionalizziamo la spesa e ricaviamo copertura per spesa corrente che facciamo rimanere però totalmente uguale nella colonna delle spese correnti totale. Però è anche vero che se quegli ordini di grandezza è stato possibile intervenire per dare copertura a nuove spese, beh, una parte di quelli, per la parte che qui viene identificata come in deficit, responsabilmente in deficit, da coprire, si potrebbe utilizzare per coprire davvero. Le sembra che occuparsi anche dei tagli di spesa contestuale sia un punto di forza o di debolezza? Eh no, è necessario porsi il problema, perché altrimenti ha ragione chi critica la proposta definendola demagogica, e dirà vabbè, ma questa è una bengodi. Leggevo ieri un po' di commenti su Twitter quasi di dileggio, dicendo questi propongono un bengodi in cui tutti ci guadagnano e il gettito che fine fa. È evidente che questa proposta presuppone un calo delle spese. Allora, se noi intendiamo la spending solo come riallocazione, questa proposta non potrà mai passare, a meno che di non fare deficit aggiuntivo ma col nostro debito pubblico. Mi pare evidente che non possiamo scommettere su un recupero dall'evasione fiscale o da una maggiore efficienza e intanto prenderci alcuni anni di buco. Quindi questa proposta presuppone che ci sia un intervento in riduzione della spesa, però io credo che il tema dell'efficienza della spesa non possa essere visto solo in termini riallocativi, è una parte importante, ma efficienza significa anche fare le stesse cose con meno risorse oppure decidere che lo Stato non si occupa più di alcune cose. E infatti è un tema ovviamente culturale, politico. Infatti nell'elenco delle proposte a copertura degli interventi sul fiscal expenditure ci sono quelle sulle imprese, dicendo quali no, cioè ovviamente nessuno pensa di levare le agevolazioni alle ferrovie dello Stato o ai trasporti pubblici locali, però dalla stampa e così via c'è una pagina intera di proposte che vengono riprese da quelle di Cottarelli iniziali, quelle che non vennero poi approvate e fatte proprie da Guttke e dal governo Renzi, però sono esattamente esempi di quello che il professor Stenardo dice adesso, cioè cosa che lo Stato, ma perché le deve fare? Assolutamente no. In cambio però, qui nel volumetto di 122 pagine lo trovate sviluppato bene, gli indicatori di equità, cioè se vogliamo usare come indice di distribuzione del reddito il coefficiente di Gini, ha dei limiti, ma insomma usiamo quello, però con questa proposta si ha più equità rispetto a quella oggi, per i motivi che vi ha spiegato il professor Dario Stevanato. Viene eliminata l'erraticità dei balzi dell'aliquota reale in prossimità degli scaglioni attuali, per cui chi guadagna poche migliaia di reddito prima o dopo dei 28.000 euro, che è la soglia per avere un balzo dell'aliquota marginale, viene salvato rispetto a oggi, e si concentra molto di più l'effetto invece di integrazione a favore di chi ha meno. Perché, professor Stevanato, però queste cose a chi è un sostenitore della progressività appaiono impossibili? Le aliquote progressive sono da sempre, nella storia della sinistra, ma in realtà è trasversale oramai, identificate come automaticamente generatrici di maggiore equità. Ma è un mito che risale a circa un secolo fa. Le aliquote progressive sono state sempre presentate come la principale bandiera della visione redistributrice politico-sociale, cosiddetta politico-sociale dell'imposta. In realtà, se poi andiamo a vedere la loro effettiva operatività, si vedono delle fortissime sbalzi di progressività verso l'alto in concomitanza delle due guerre mondiali, quando l'imposta progressiva sui cosiddetti più ricchi assunse una valenza compensatoria, no? Cioè si diceva il popolo contribuisce andando in trincea e i più ricchi contribuiscono con prelievi che arrivavano fino al 90%. Ora quell'epoca lì non c'è più e si è arrivati semmai al suo opposto, cioè si è arrivati che la discriminazione qualitativa dei redditi che doveva colpire più quelli di capitale è stata rovesciata e oggi pagano più redditi di lavoro rispetto a quelli di capitale. Esatto. Si è arrivato a un sistema che tassa in modo fortemente progressivo i redditi bassi e in modo proporzionale i redditi alti. E mica distingue tra chi ha 100.000 euro o 2 milioni, paga esatto, a quel punto la stessa lista. Quindi chiediamoci, perché l'altra alternativa che citavo prima, perché qualcuno pensa che si possa tornare alle imposte di Roosevelt in cui mettiamo dentro... Quella ce la riserviamo per un'altra volta, professor Stevanato, perché il tempo è finito. Allora, sito www.25pertutti, due numeri, 25 per come fosse moltiplicazione, per tutti.it, e se aggiungete /pdf.html il paper e il libro da scaricare. Grazie professor Stevanato, ne riparleremo comunque anche sabato ai Conti della Belva.